la prefetta impresa non ha fatto dei propri veri bandi, come invece è già avvenuto in alcune città, Ravenna, Forlì Cesena e anche Parma, sulla quale c'è già tra l'altro una presa di posizione di contrarietà del sindaco, ma semplicemente ha chiesto agli enti gestori, in attesa di formalizzare il nuovo bando, di continuare la propria attività fino, credo, al 1° luglio, comunque per alcuni mesi, però non più alle condizioni del bando con il quale loro operano all'interno delle strutture, parliamo del CAS, parliamo dei centri di accoglienza straordinaria, ma di applicare da subito ciò che è previsto dai bandi tipo del decreto Salvini, che parliamo di 18 euro contro i 34 euro. Allora, questo immediatamente apre, uno, un problema occupazionale, ma al di là di quello si apre immediatamente il problema di come questi ospiti all'interno delle strutture non potranno più beneficiare di tutti quei percorsi di integrazione che erano previsti fino ad oggi. Quindi spariscono i corsi di lingua italiana, sparisce tutto il tema della mediazione, sparisce tutto il tema dei percorsi di integrazione lavorativa, spariscono tra l'altro in questi bandi le figure dei legali, che sono quelli che curano non solo le domande di asilo politico, che si presume che per quelli che stanno nei centri siano già state predisposte, ma sparisce tutta quell'assistenza legale di cui questa persona ha bisogno fino alla conclusione dell'iter per il riconoscimento o meno della protezione internazionale. Tra l'altro è una modalità un po' bizzarra. E infatti su questo ti volevo fare una domanda, perché, come dire, di proroghe ai contratti in essere in questo campo ne abbiamo viste, spesso servono anche per, come dire, coprire le strutture in attesa dei tempi burocratici dei bandi, però prorogare contratti in essere con regole nuove pone dei dubbi anche dal punto di vista giuridico. Pone tanti dubbi dal punto di vista giuridico, siamo ovviamente anche noi affrontando questa tematica insieme al gruppo di legali che anche all'ASGI in particolare, che si sta occupando di queste cose. Noi riteniamo che non sia una condizione possibile, perché rispetto ai bandi ci può essere un abbassamento di qualcosa, ma sicuramente non l'eliminazione. Per cui dal punto di vista legale, certo, stiamo già lavorando anche noi, insieme anche ai legali che oggi lavorano già, collaborano già all'interno delle cooperative sociali, perché riteniamo che questa cosa sia inaccettabile. È molto bizzarra la posizione della prefettura di Bologna. Sei a conoscenza di quale è la risposta delle cooperative e degli enti gestori di fronte a questa proposta? La risposta degli enti gestori, ovviamente non ho la conferma ufficiale, ma so che quasi tutti gli enti gestori ci informavano che hanno risposto di no a quelle condizioni. Impostati così i bandi significa che due operatori su tre perdono il loro posto di lavoro all'interno di quella struttura, quindi si apre immediatamente un problema occupazionale enorme, primo. Secondo, si disperdono delle professionalità molto alte, che tra l'altro difficilmente sono immediatamente ricollocabili all'interno di altre strutture, perché sono nati e si sono formati per fare quel tipo di lavoro. L'operatore dell'accoglienza ha fatto una scelta di vita e si è formato rispetto a quella scelta di vita. I problemi sono da entrambe le parti: il fatto che tu oggi non riesci più a garantire percorsi di integrazione per i migranti che restano chiusi dentro queste strutture, che diventano tipo un albergo dove c'è un portiere che apre e chiude, ma parliamo di un sistema che è completamente avulso da quello che è capitato a Bologna in questi anni, ma mi sento di dire in tutta l'Emilia Romagna.